Vieni qua, gli ho detto. Quello lì è il tuo, io, gli ho detto. E Marco tipo Marina scherza. Ma io non voglio. Lo so, beh certo. E cosa cazzo vuoi fa? Va, per carità, guarda. Proprio li date. E mando una cosa, esatto. Adesso sta arrivata, guardate tanto. Dopo era biglien di Barunguru, era. Cioè, ero cantante di USA, e biglien un po' con paura Sara. Perché sto dicendo il giorno che poi trova il suo, gli spacca la testa, già gli hanno spaccato un po' di volte, ma da non vado di più, ci credi? Vabbè, tu meglio evitare la vostra gente, io mi minando, cazzo un piombo, mi paga, paga mi da bene, ma lascio pagare due bambini, mi sono a Tamarina, io in presa da VM. Sì, ma anche quello che fa, cioè, a me non pare troppo esagerato, cazzo, trero una birretta, cioè, e gli danno la docca la manna, lo sai che non si può fare? Ehi, Antu, vabbè, noi abbiamo lasciato un euro, non la mando più. Credo che da poi si ripaga, vedi, gruppo, non ci rimette un cazzo la tasca. Mi, cazzo, io guadagno, non vedi di no. E allora, lei va là, lei cosa fa? Con questo gioco qua fa la serata, e lei non è da un bimbo minuto in busciacara. Cioè, quello che lui, che lei deve dare a Costantino, deve dare a chi viene a cantare, non ci rimette quasi nulla. O se pur sì niente, neanche. Entra un obbedienti, entra e guadagna un obbedienti. Non lo so quanto è l'una, cioè, perché fai che conto che sia un euro l'una, ci guadagni 2 euro ogni bottiglia. Cazzo, se entrano 30 persone canti di naso. Ma di sì, magari, cosa cazzo, 70 centesimi, 60, ma ne pigliano un bel. Cazzo, a ne guadagno. Che ci vuoi qua? E poi, te lo sai, che è sempre pieno, quindi cazzo di una fate. Ne arrivate, ma puffa, un bel. Che c'è di Obama, che cazzo. Allora, così sono a minimo. Quanto è il segnale? 9, tanto poco di meno di 9, va a picchiare sul 9, anche un bel segnale, dai, diciamo. Così è a minimo l'apparecchio. Così è come prima, dovrebbe andare bene. Così è 9,5, picchi 9,10. Già andrà bene. Non sono a manetta, mi. Già bastano, come basta. Ma così va bene, poco. E l'antenna, va abbassare l'antenna e regolare lo tubo, insomma, perché sicuramente questo qua ha un'impedenza diversa. Certo, ma va bene, adesso arrivi benissimo, cazzo, cioè non è che ti puoi... Non è tipo la vinta, arrivi benissimo. Oggi ho compreso una cosa, che andate a corrolineare, mi fa questo scherzo qua, allora. Si chiude l'apparecchio. Che cosa? Non ho capito. Quando quello, lo fa solo in questo apparecchio qua. Se io adesso mi metto a attaccare l'amplificatorino, il 747, come vado ad appoggiare il coso, il PL mi si spegne il display dell'apparecchio, il coso lo smette e rimane acceso, dove c'è il coso dei canali rimane spento, e chi sta apparecchio solo lo fate, l'altro non lo fate, sarà difettoso. Se passa la luce dello smette mi ha detto così è. No, cioè la rete rimane accesa, il canale scompare, non fate più nulla. Praticamente l'apparecchio si chiude. Non faccio contatto. Invece con gli altri apparecchi non lo fa. Allora è un problema di baracchino. Sì. Ma già va bene così perché tanto già ne ha potenza. A voglia. Perfetta, giusto. Cappa. Ah, ma n'ha pigliato di giù sicuro. chi so, che c'è l'elemento? Ah, e allora per più vizio. E ya, sto sui centro. Non le è andata sempre bene, no? Sì. Come ti manca pure mangiare la lecce? Ai ai ai. Cazzo, non impara mai. Lui, lascia perdere. Cazzo, è proprio sadico, rimbiate le facce con di forze. Perché capito, prendono cosa cazzo mi so, gubo. Fa diventare forti. Ah, capito. Non basta solo l'imbriaghera. Lui. Vabbè, si sciuareggia, hai capito, ma sono i più bravi, si sciuareggia. Ma se puoi evitalo. Ah, io temo, se mi rompe il coglione il cazzo di pacco col gabbo. Ma infatti, allora che c'ho qui veramente, ora il genere non vanno più. Fui. Carità, oh, yeah. Casino è tutto. Purtroppo esistono anche questi personaggi, purtroppo. Assoluto. Alza che il computer non dà più problemi da quando ho messo il capo grosso. Ho sicuramente la dispersione quel cazzo di cose. Capo grosso? Da quando ho messo il capo grosso, il computer di qua non dà più problemi, si alza poco a poco. Capito? Sicuramente la dispersione quello là. Computer, ma si dice? Ehi, il computer di deposito qua, ogni volta che salivo di potenza, non andava più il mouse, non andava più la tastiera, capito? Da quando ho messo questo capo grosso, non mi sta dando, ho visto che non mi sta dando problemi anche se salgo, capito? Come fa a salire di potenza, scusa, non ho capito. Qua, nell'apparecchio. Praticamente il baracchino dava fastidio al computer. Ah, non ti capivo, infatti aumentavo la potenza e poi c'avevo l'alimentazione del computer, non ho capito. Ma portatile. No, quello fisso. Meglio così, meglio. Vuol dire che... adesso i cavi sono così, ma sono schermati è meglio. Beh, certo che è meglio un cavo grosso che un cavo sottile. Beh. Attenzione, Natalino Alfa 1, fratello mio, che casino, cazzo. Casino, Antonio, casino. Natalino si ha sostituito l'antenna. Lo so, sta piazzata, lo so. Qui non ti arriva a palla, va. Sì, è in mezzo, tra l'altro lo zero. Sì, assai lontano è a casa tua. Lo so, sono vicini. Molto. Sì, sicuramente io non ce la faccio a passarlo perché io sono più distante, capito? Sì, vabbè, ma anche tu già arrivi bene. Ma tu, cazzo. Lo so. Arrivi abbastanza bene. A palla. E anche a casa me l'avrei voluto mettere il capo grosso, solo che è un casino. Come cazzo faccio? C'ho quello cernaio, non sarra, un casino diventa, mentre Eva. Qualcuno mi ha detto di fare il buco. Ma che entra qua nel cernaio? Perché se lo metto non mi chiude poi. Il buco devi fare tu. Ho detto fa il buco così, ma ho paura che mentre Eva. Basta mettere la guaina liquida. È un bel doppiazzino, Sono salvi un pezzo di cosa, di catramatto. Sopra il filo. Il buco. Come cazzo fai? Io gli metto un po' di cemento. A voglia. E poi il cazzo devi bucarne tutto e tappa tutto. Avrei voluto mettere perché mi avrebbe dato più prestazione. Hola. Vabbè, lasciamo questo per il momento. Che magari. Casino. Però il microfono a tavolo si sente bene, l'MB più 4, no? E alla grande. Tutti i rumori intendi, no? Che però già va bene. Chissà se esiste ancora RG8, bro. Che appaga pantuga, vagabo. Adesso guardo un cazzo, capo G8, sai che lo fanno ancora? disturbando. Come? Ti sta disturbando? E chi? Dico, la computer. No, un negativo. No, stavo guardando se lo producevano ancora. Non disturba più, no. Insomma, quanto è tosto fare il VL lui. Mamma mia. Oggi ti pagava a roggi le popoli. Che ne prete? Hai sentito là il mini RG8? No. Che si sa che è quello? E va. Sì. Sicuramente va benissimo. Come cosa? Sì, sta ascoltando un messaggio di Marina. Chieve. Un casino questo. Quanto ne ha venduto a Fusaro negli anni? Gli anni che furono, grazie a quei capi lì. E se no c'erano molto di più il CB. Gioia. Vabbè. Tu cazzo. Sono così. Ma se quando uno diventa radioamatore, ormai di là i conni. Piazza antenne, contro antenne, piazza Ghite, piazza Ghisa, mamma mia. Ma io un domani, no, ma non mi pare di ma un domani, se lo dovessi diventare un antenino così e boh, mi una frutta per andare qui fuori, ma io sto per chiacchierare in altre frequenze. Ma guarda che ci sono cose che molto meno mastodontiche che fanno bene. Un bel voce, cioè, fanno molto bene. Non c'è bisogno di fare chissà che cosa. Lo so. Però se vuoi spingere lontano devi avere le cose adatte. Lo so, arriva pure un bel poco di chilo a parte. È bello casino, proprio. Non so che costa. È un giochetto che costa. Ma facciamo che se uno è un attore. Tipo un radioamatore che vale di là, si muove in apparecchiature costose, capito? Non stiamo parlando di euro, stiamo parlando di milioni, non di milioni di euro, no. Insomma, dai 5, 6, 7, 8 mila, 10 mila. Lo so. Solo con la radio, proprio gli antenni, il cavo, quello, quell'altro, un'altra antenna, e quello, cazzo, qui. È così, altro. Così ci vogliamo un bel di là, non un bel, no, di più. Un bel po' di soldi ci vogliono. Vabbè, non avete consegne ancora? No. Come per la musica, se vuoi una cosa bella grossa, cioè un impianto come si deve, devi mettere i soldini. Certo che sì, è così. Io per il momento mi sono bloccato. Quando lavorerò mi prenderò roba più, ancora più potente, più professionale. Certo. Cazzo, roba di nave buone, già l'hai visto una cazzo da... Stiamo partendo cazzo da 100, 200 euro, 300 euro, oh, ma buco mente, mi dà travaglio, io ando e travaglio, cioè allora sì che faccio i soldi e via, però ho visto i prezzi, ho visto lui. Meno di 100 euro uno non piglia, mi fa pure il karaoke. Se uno vai plus tu vinci, dipende dalle ore. Certo, Costantino ha preso un minimo da fare dalle, è iniziato dalle 5 fino a una certa ora. Mi pare gli altri 200 euro. Ma cosa ce l'ha da mangiare lui? 200 euro già va bene. 200 euro gli ha dato? 200. Esatto, 200. Non è macono. E gli hanno già guadagnati, già siamo pagati noi. E allora che ha pagato secondo te? Vabbè, gli hanno spese, perché c'è da pagare il barista, c'è da pagare chi lavora lì, chi dà una mano, capito? Però già non me lo dissolta, voi che guadagna. Sì. E dopo la cena, mettiti in cura a capo, a ne di là. Ma così era? Non ha fatto la cena, Luca va fatta grazie. 5 euro a testa. Cavolo. 5 euro a testa, 25. 25. Ma vi lascio mi trovare la magna però. Senza mettere ci tieni da luce per me. Ma parola, faccia dicendo. Ehi. Allora. Ehi. Poi quella che avanza se la mangiano la sera, non buttano via niente. Se c'è un amico, sta, mangiamaci. Ah, ecco. Buono. Ehi, tu, vedi, naso, questi chi so. Io una volta già sto tirando il freno a mano, birra la sto bevendo a fine settimana, prima andare al ginocchio, lui circolo, ma non vado, non interessa. Quando una giovane me la picco a casa, capito? Se vediamo domenica se andiamo al mare, buh. Sì, si fa del bello tempo. Sì, cosa la dico, manco ma la camera mi basta. Adesso sabato scendo in garage. Scendi? E io stavo in Pisa sono. Tu lì sei domenica. No, se andiamo al mare andiamo. Se andiamo al mare andiamo presto, capito? No, sabato. Dove? Sei da Marina. E allora? Via. Già ti chiamo quando scendo. Dico, scendi, a me non lo vedi. Dovrei scendere. Non ho capito altro. Chi è che vuole entrare? Oh, ho detto che dovrei scendere in garage sabato. Ah, sono lì, ma di mattina o di sera? No, di sera. E care Griccio? Ah, boh. C'è un po' di propagazione. Non so chi è, c'è una portante. Qualcuno che non sta uscendo, boh. Voce mi passano i nomi, i camionisti mi passano. Quanto ne roba racchino, si buona modulare roba di coi pibigliani da me. Aspetta un attimo, tu. E io. Io da sabato. Novità, io sai che troppo subito. Buongiorno a tutti. Siamo che è passato, una bella ragazza, ma bella. Isso Maria. Quello di Colorado. Cazzo, mamma mia. Fine del mondo, grazie. Ne ho visto una stamattina, mamma mia cosa era. Ui che cosciotta, cazzo. C'era il ritirente dei passi che hanno fatto Baldoria. Mi va via la gonna ai nonghi. Una cosciotta, cazzo. Cazzo ha detto, oh cazzo, sta cosa, cazzo, a me mi fate girare un grafo. Cazzo di buona lui. E tanto c'è un messaggio? Sì, ja. E così, vabbè. E che ci vuoi fare? Ando! Ma a Puglio d'Orra non ne fate nei karaoke? Sì, lo fanno. No, andavamo quando ci andavamo a trovare le mura con la moglie, sputo le mura, non c'è più, è morto. Sì, lo fanno. Quanto un giorno che sto organizzare? Organizziamo a, come si dice, andare a Puglio d'Orra da qualche parte. Sì, si può organizzare, chi è che vuole entrare avanti? Cosa cazzo schiacci la portante a rompere le balle? O no, la gente parla, boh. Ma perché mi sta passando? Sì, ti sta passando, ma... Mica momento. Cazzo assurdo, veramente, io non ho parole. L'asino, manzano, boh, ma io non so cosa cazzo vuoi fare niente. Ma ieri non c'era nessuno. Yeah. Ieri fino a ieri sera non aveva nessuno lui. Baracchino. Cosa vuoi ti dire? No, che rompeva le balle, ieri sera c'era molta attività, c'era. Non c'era nessuno che rompeva le scatole. No, ho capito. E vabbè. Oggi va a sanguinare io, ma anche no. Ciao, non ci va tuo fratello al circo a Puglio d'Orra? Ma no, tu se sei una picca. Ah, di chi c'è? Vabbè, la farina. Ah, non sta lavorando adesso? Sì, già lavoricchia. Stavo lavorando a qualcosa dell'olio. Ehi, lo chiamano un po' dappertutto. Lui c'ha anche la patente C. Ah, ecco. Mi dicono che tu hai detto che stavo lavorando al dolce fagioli di scarto. Sì. Allora, già travaglia. Non sapevo che aveva la C. Sì, C. Allora, già. Già stanno bene. E solo che vabbè lavoro a tu. Diciamo che. Mettiamo di balle. Lo so. Già non stanno male, da. E tu dici il QRM è zero. Ma pure a te così. Gaba gaba. Che proprio è a Santiago 1, cioè. Neanche, si muove appena appena. Sì, vabbè. Io adesso do in avanti e mi farò sì. La mia di live e chi vuole entrare. Se mi fa piacere. Lascia vedere. Arrivo una buona. Lo so, però le live sono fatte per scambiare. Arrivona. Pari. Sì. Non sa, sono della provincia di Oristano. Che cosa? Senti che ciò. Sono una buttidura che si gatta di cose, cerca donne, eccetera, eccetera. Tutto a pagamento, so. E no, tanto sticchetto. No, qui si dicono donne, adulte, eccetera, eccetera. Qui si dice per comunicare cosa. L'ha fatto un amico mio. Dopo che ci ha messo i dati, gatto Brianna di Dina. Anzi, Nande. Sì, vabbè. Tu ti nudi, Antonio, vascia, beh, da voi. Per fare il numero di solito parti di picchiata. No, non mi ha chiamato Daniele. Lo sto lasciando il box chiusi perché mentre ci usciamo subito. Carico, usciamo. Se tu abbia ancora le cuffie in capo, ma dimmi tu, rincoglionimento, cazzo. Stavo ascoltando una cosa al computer. Però poi ho bloccato che stavo parlando con te. Ho ancora i cuffie in capo. Rincoglioniti di voi. Oh via, per carità, cazzo, povero me. Lo so. Oh via. La cosa vuoi va. Cazzo. Sono contrappendi, più io che c'ha parecchio. Cioè, prima rimaneva sempre il vermo in casa. Ah, non so contrappendi, un bel. Ma non lo tratti in chilo? Ehi, beh, se non ve ne altro. Ehi, ma col microfono a tavolo viene meglio, cazzo. Fai così, te, fa vedere. A mani libere. Beh, conosci a Cristiana Becca. O lui. Ehi, Anto, scusa, dimmi. Ma tu la conosci a Cristiana Becca? Dunghi tu, Massimo. Che avanti? Canoletti sono. Basso, Santiago 1 sta arrivando. Magari a noi ci sentono. Che va a fare? La va si è caimata un poco. Un autore ne ha strisciato. Un giorno ti racconto una cosa in privato. Chi ha tra voi? Aspetti, chiamo, te la racconto, ok? Aspetta, ma io sono in una live, Anto. Magari dopo. E dopo ti chiamo, cazzo, te lo racconto, cazzo. Cazzo, la giuretta la conosci. No, c'era no. Ilaria. Chissà se gli piaci. Oh, yeah, ti sbottonami, chissà. Signor pure il gabbo, che. Già lui so che mi ha detto mandava. Le bombe mandava. Che cosa? Che mandava le bombe. Le bombe? Ehi, dimmi. Pure a te l'ha fatto. No, me no. Già ti racconto qualche cosa riguardo a quel fatto, ma un qualche anno fa. Lo so. Aspetta un attimino, adesso mi sposto dalla camera, tu guarda un attimino e mai mi subisce. Ehi. guarda che stanno più o meno vitaminare. Adelante, adelante, mio hermano de la España. Hola, hola. Y avanti, avanti, España. Qui è la città di Sassari, Sardegna. Santiago di Sette, Santiago di Sette, Radio 4. Buenos días, buenos días. Se va che ha con topi, giurri, era il che va che ha. Hola, hola, hola. Damo reggaeteque contigo, Illu. Oh. Mosco reggaeton. Atento Salvatore, atento Salvatore. Sì. Omeo. Ok, Andore, bien copiado. Saludos cordiales de aquí de la España, tu amigo Romeo Cepo. Esta es la città di Sassari, Sassari, Sardegna. Operatore Carlo, ti saluto. Toma, mute. Adelante, adelante, Romero. Ok, Carlo, Carlo aquí, es la città di Sassari, nord Sardegna. Ok, la Malagueta, la playa de Málaga e la Malagueta. Ho visitato due anni fa. Ella, copiato, Santiago di Sette, Radio 4 qua. Per te, amico, cordiali saluti qua da Carlo, città di Sassari, un saluto per tutta l'Andalusia. A Romeo, ciao. Buon addio. Sì, è che il pataleo che non vea. Prova. CQ, canale 10. CQ 10. Oh, hola. Va bene così. Ok. Tu mi stai arrivando Santiago 8, quasi 9, da 8 e mezzo diciamo. Io non so lì come arrivo da te, ma visto che mi stai rispondendo mi va bene così. E qua sei, non sei forte, la verità ti dico. Lo so, sono basso di segnale, con un watt cosa vuoi fare? Con un watt non è che puoi andare troppo in alto col segnale, per cui va bene, ma pensate che mi sentano. Quant'è? 5, 6, 7, quant'è? 5, 6. 5, io sto utilizzando 15 watt. Appunto, ti ho detto, con 15 tu stai arrivando quasi Santiago 9, 8 e mezzo, dai, siamo lì, dunque, vedi la differenza c'è, no? Vediamo qui, da 15 a 1 la differenza è notevolissima. Lo so. Adesso sento anche molto meglio perché ho messo capo grosso qua, per avere una ricezione migliore, una trasmissione migliore. Ma stai uscendo molto bene, anche in radio, bella, chiara, proprio forte anche, va benissimo così al tuo. Cappa, alla grande. Sì, veramente alla grande, no, non c'è problema. Considerando anche la distanza che c'è tra me e te, per cui no, non è quello il discorso. Il segnale lasciamolo da parte, è interessante la radio che va benissimo. Sto usando l'MB più 4, con l'87. Ok, no, io ho un microfono al mare di quelli da normalissimo, insomma, ecco, un microfono da 15 euro ed è normale, senza amplificazione, senza niente, piccolissimo, sembra più piccolo di una saponetta. Però già esce. Sì, che esce, a voglia se esce. Va bene, dai, dopo ti mando la fotografia, ti mando di quello che di questa radio, dai. Capito. E andava e comunque già funziona. Cazzo ammazzo, quanta disparità che c'è. Oggi che c'è un coso che non c'è niente bene. Non ho capito cosa ha detto, l'ho distratto. Alto. Ho detto che c'è un po' di disparità di segnale. È ovvio, capita, tra un watt mio e 15 watt tuoi, io non credo che c'è disparità di segnale, è normale, no? È normalissimo. È un baracchinetto da 4 soldi, capito? E dunque, così, non si può pretendere di più. E tu conta che io sono in basso, me. Tu sei in basso, e io come sono? Io sono nella vallata, per cui, già lo sai, dove abito io è più in basso di Sassari di 90-95 metri, per cui non lo so io. Cazzo, stiamo facendo completamente troppo bene. Io sono in basso, a confronto c'ho tutti i palazzi di fronte, a confronto. Cazzo, a confronto ti sento bene. È appunto quello che conta, interessante sentirsi, poi per il resto soltanto non serve a niente, segnali forti non serve a niente, quello che conta è sentirsi. Quando mi sento non sono contento così io. Sì. Dabba. Io ho sempre un arringomi qua lo stesso. Come a casa è qua a me. Ok. Io ho sempre la solita antenna, non è che la Game Master è bassa, ma c'è stata il Poggiolo che è abbastanza bassa, non è alta, poi per giunta dove abito io è una vallata rispetto a Sassari. Per cui va bene così, non mi interessa, non ho altre pretese più di tanto, capito? Mi va bene così. Stavo facendo dei miracoli, io qua sono attorniato di palazzi, Lo so, ma almeno in quella zona sei molto in alto, rispetto a Sassari, sei molto, ma molto più in alto, perché Sassari 225 metri sopra il livello del mare, dove sei tu, minimo sono 300-350 metri, anche se ci sono le palazze davanti, però hai il vantaggio dell'altezza, dell'altitudine della città. Sì. Va bene così, no, ok. Io va bene, adesso vado a fare una passeggiata, vado a fare 4 passi, così alleniamo le gambe, alleniamo. rimanere sempre seduti nella poltrona o nel divano, non è che va bene. Se faccio una passeggiatina qui attorno a piedi, non è macchina, no, a piedi, per camminare insomma, ecco, tutto lì a giù. Ho capito. Tu già cammini ancora, perché sei sempre al lavoro, dunque, soprattutto quando devi fare le scale, già cammini abbastanza, soprattutto col peso sulle spalle. Ma io ormai sono anni che non lavoro e dunque sono ho bisogno di muovermi, insomma, di camminare, dai. Sì, scommetto che tu per qualche anno avresti ancora continuato. Sento qualcuno che c'è sotto, stavo dicendo sì, e beh, io avrei continuato sì, anche fino adesso, anche fino all'età che ho adesso, a voglia avrei continuato, ma dunque ho smesso praticamente in casa, ma ho detto ma che ce la fa fare, basta così, ma oh, basta, io hai lavorato abbastanza, ho lavorato 62 anni nella mia vita, basta. No? Ma appunto, a fare dai doglia, a fare dei cose con tua moglie, eccetera, eccetera. Purtroppo noi tutti abbiamo una fine. E beh, certo, sì, avanti, chi era l'importante? Avanti, che vuole entrare? Che vuole entrare, avanti. È una portante, Santiago 9, c'è da qua. Va bene, dai, tu, io scappo, vado a farmi una passeggiatina, ci sentiamo. Ciao, tu, Santoni, alle prossime, dai. Ciao, ciao, ci sentiamo. Сканирование, копирование и распечатка документов. Вводи хранения, отправка документов Почты России. Работаем. Понедельник, пятница, 9 часов. Presente, va bene. signora qua? Sì, signora. Ho capito, vabbè, va bene così allora, come ti dica. Ma va, vabbè, dai, ci andiamo più tardi, ok? Buon pranzo, questo che bello. Sì, buon pranzo anche a lì. A che ora passi? Alle 10:20. Va bene, mega. Ciao, ciao. Ciao, buon pranzo, saluto a Lucia. Cosa ha cambiato anche la parte sua? Cambia. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. Chi è? È più forte di Sassari, è più forte di Sassari qua. Chi è vero sì? Ah, vero sono, adesso rimetto la portante, rimetto la portante. Stasera quando ti trovo mi metto il banchetto e ti tiro schiaffi a faccia, così impari. Mica te l'ho visto ieri, mico, cacciavite nel braccio mio. Ma non mi risai? Oh, mamma mia. Aspetta un attimino. Uno e quattro, la vita non treno crolla. Mantello, che ha fatto, Sarvì? Aspetta un attimino, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ero appena spostato in frequenza, come mi senti? Cambio, passo meno con prescambio. 9:40 qua. Ma sono in condizioni precarie, condizioni precarie della mia, Natalino, sperando che tu mi ascolti, cambio. Hola, hola. Dove fate l'antenna? Cara gara, io ho piazzato l'antenna. Cos'hai fatto? L'antenna mi ha acceso, mi ho piazzato la nuova. Già si vede, già si vede, Natalino, con lo scala qua, 9:35 dalla tua. Cara gara. Sì, sì, hai guadagnato qualcosa, Allora prima arrivavi all'inizio del 3, adesso sei dopo lo 0, sei quasi a iniziare la DDDB. Ultimo segnale. Ascolta, non mi stai ascoltando con la microfonia originale? Questo è l'originale President. Sempre con le orecchie. Ma carissima, quello non ci piove. Nove a portante muta, 11-12 modulati. Ancora io che carrati, butta la via. Ciao Claudio, buongiorno, me l'ho ascoltato anche a te. Buongiorno, buongiorno. Ah, passaggio Claudio. Che passaggio devo fare? 10, 20, 30, 40, 50. No, sei sempre uguale. Per un attimo mi è sembrato di vedere anche tu sullo zero. Oggi di te è successo, che ho appuntato la direttiva. No, sei sempre il solito segnale. Ultimo a radio, segnale 9+20 a picchi positivi. Già va bene, Sarve, l'importante è che ci ascoltiamo, già va bene, per 40 anni ho dominato l'universo, adesso dominatelo voi. Ma, sicuramente non hai il gingomma. Guardate Nino, dai, andiamo contento da qua, anche perché il prossimo anno devo migliorare da qua, quindi non so se ne valga la pena salire sul tetto, fare un sacco di casino, perché comunque qua abbiamo visto che l'antenna funziona, la manco ma non è da buttare, ce l'ha piazzata qua sopra i matracchi, però poi devo già lì il prossimo anno per attaccarmela, perché qua sono sentito un padrone, o acquisto, o devo cambiare casa. Ti insisto, per carità. E io posso incrementare anche di 20 dB, non ho problemi, però va bene così, perché io l'antenna c'è un giardino, se lo metto sopra la casa sono cacchi, ma non mi interessa perché esteticamente è brutta e non me ne fotte nulla. L'importante è che ci sentiamo. Sì, a voglia, alla grande, alla grande. Natalino Alfa 1, cos'è piazzato? La Game Master? Via! Mamma mia Natalino, ma è sempre a bordo di gente in chimica, non si comprende un accidente. Sì, che decisore. Ma che non sei tu troppo alto Natalino, sei tu troppo alto. Mettila uno lo devi mettere, non lo spostare da uno, se no è troppo alto, anche meno di uno. Natalino, si sente anche la gente che c'è al tabacchino, ti lo seguo i zombie. Guarda, ha passato, bene va lì. Ma che stai portando appresso tutto, ci sentono vento, le ventoline, ventilatori, persone, se la abbassi un po' è meglio mi, perché è più pulita la radio, è forte lo stesso, poi fai come vuoi. Aspetta un attimino, metto il microfono di tavola, così vi faccio sentire il casino anch'io, da. Aspetta un attimo, mia moglie vuole attendere delle lenzuola, già conosciuto. Sì, Natali, devi tenerlo basso, perché si sente troppo rumore, troppa amplificazione. Va bene anche meno di uno, basta che sia leggermente amplificata, se no è troppo. Hola, è cambiata la matracca, cambio. Natalino, Alfa 1, senti guida mia, cambio basso. Già ti sento. Ma vai basso, Bruffio. Però, sono un Tullio che ti porti sempre appresso la ventola. Hola, ascolta, la mia com'è ora la modulazione? Migliorato la tua microfono? Sempre la solita, è schifoso, è buco. Dai, quando mi dici così mi calmi i nervi. Hola, la cipolla, patatina e Coca-Cola. Hola, è attaccato. Ancora si sente Savidio. Savidio è in bagno, però adesso sta arrivando, sono il cognato, buongiorno comunque. Chi è che mi chiamava? Buonasera. Io sono qua. Abbiamo uno di musica sassarese. Ciao Luca. Negativo, Savino, anima lunga. Oh, tutti balucca mi chiamano, eh. Sono in macchina, per me è difficile. Finestrini aperti, direzione Alghero. Adesso sono al viadotto. Capo, dai. Già va bene. Ascolta, Claudio. Dimmi. No, a Claudio stiamo cambiando da Sparviero. Ciao Claudio, anche tu sei acceso adesso in macchina. Dimmi. Carlo, dimmi. Natali. Oh. Alfa Bacco a me. Adesso sto scendendo in via Gallura. Cava, allora sei vicino a me. Eia. Infatti ti sento a bombolone qua. Cava. Fate la bella per tutti quanti, buongiorno. Millo mi. Quello è Gianni Duro, aspettami. Ciao Gianni. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour monsieur, ça va? Ça va très bien. Très bien. Très bien, merci, garçon. Aspetta che vi faccio parlare un francese, vieni. Dili qualcosa. Bonjour, ça va frigo, ci va bien? Ci da più giù, lui è un Sardegna, italico. Stava da Meteo là, com'è? I febbù. I tabonisi. Ciao Sarve, buongiorno. Ebbene, non risponde nessuno a mio cognato. Qua stiamo parlando in francese, eh. Adesso andiamo a fare un paio di ex, posso farvi da Edu. Buongiorno a tutti. Tra un po' ci siamo. Stiamo facendo il conto alla rovescia. Fra 48 ore nasce il mio pupo. Auguroni! Non so l'imbriaghina che mi pillo, però là, vediamo, là, cerchiamo di contenerci. E ne hai altri? Sì, è il primo, mia moglie ha detto che sono cantarino. Per dare una bella notizia di un altro mio ente, senti, è retrovie. Sì, è il primo, il quarto. Poi? No, io ne ho due, ma sono grandi adesso. Il nostro grande c'ha 15 anni, è alto 1,75 m, deve compierli 15. La mia ne ha 16 e l'altro ne ha 24. A mia moglie gli ho detto, lo facciamo un altro, mi ha detto, fatelo con un'altra. Ciao Carlo, ma è Natalino, cosa sento la radio? Natalino, cambio i fusibili. Ciao Carlo, buongiorno, dove sei? Avete parlato in due, Claudio, avete parlato in due, ripenica. Non ho sentito. Carlo, dove sei? Sono vicino a casa di Natalino, vicino al Cavalcampi. Cosa ha detto, Sarve, vicino a casa? Ma stai scherzando, non lo senti, qua? Non pensare che arrivi forte dentro Sassari, Carlo. Arrivava meglio quando va al lavoro che dentro Sassari. Ah, vabbè, dai, comunque, ecco, perché c'ha il tuo stesso segnale, ma è in zona Corso Trinità, dai. E sta andando al lavoro. E sicuramente di lì rimane comunque sia un po' chiuso per la zona tua. Qua mi sta sfasciando lo smitter, Carlo. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao Gianni, buongiorno. Ce l'avete giù nella bassa valle, che io sono dall'altra parte della città, quindi qua l'ho sentito ma poi è sparito. E adesso come c'è la stanza, ridiamo su di bene di nuovo. Io da qua non ne ho problemi, non ce n'è problema, è dentro Sassari che purtroppo io in macchina anche già ne ho più rumo, a volte è una ombra, lo sento più basso del solito, capito? Ciao Goffè, buongiorno. Buongiorno, Carlo e Claudio, ha difficoltà ad ascoltarti comunque, vabbè, tu sei qua vicino, mi arrivi a bomboletta. Già lo sento io Claudio, però, io lo sento bene. E a me bene mi senti? No, mi è Natalino, mi fai vedere la radio Natalino. Guarda un po', forse era troppo alta poco fa, però è meno di uno, Claudio. Sì, invece con la radio, ma anch'io la tenevo così, anch'io. La mettevo uno, mi dicevano che ero quasi per strappare. Va benissimo così, Natali, lasciala così, è fortissima. Si sente ancora la televisione, figurati, come eri prima. Figurati. Adesso è meno di uno, Meno di uno, guarda, lui c'è Saverio, io sono lontano da te, arrivi una bomba, finora da Saverio. Vuol fare prepotente adesso, vuol fare prepotente. Non è più 40, ma poco fa, sinceramente parlo, è inutile che c'hai l'amplificazione un bel alta, quando poi non si comprende una chiavica, cazzo, si sentiva più il resto che ti circondava della tua modulazione, ok? Adesso sì, pulito, limpido, perfetto. Forse l'avevo toccata e non me ne ero reso conto che era troppo alto. Tu fai sempre il tucca tucca. Adesso per dire, io non mi sento, quindi se per caso è troppo alta me lo dite e la regolo come la passo, no? Adesso ho l'amplificazione a 8. Claudio, sicuramente vabbè sentirai la caccia attiva che c'è nelle retrovie, ma la stanno portando appresso, stanno ascoltando musica qua. Claudio, stavo pensando comunque quell'antenna di piazzarmela in campagna, perché ti ripeto, qua l'anno prossimo ho acquisto o devo cambiare casa, quindi non so quanto ne valga la pena salire sul tetto a montarla per poi smontarla fra un anno. No, c'è vero, l'avrei montata in campagna, dove sta Fenchivi, attaccata alla gazzetta, attaccata alla gazza, un palo da 3-4 metri e tira cu in Chivi, te ne va in campagna, quando sei in campagna ti fai bei questioni, io avrei fatto così, sapete. Allora, a fianco a quella casetta che vedi c'è un bagno che è fatto in muratura, in blocchetti, io ho esattamente 6 metri di palo, il primo palo è un pollice e tre quarti e poi via andando a diminuire fino ad arrivare al 1,50 m del tubo d'acciaio che è innestato dentro la mantova, ok? Quindi riesco a salire 6 metri più l'altezza del bagno che è 2,030 m, salgo 6 metri più altri 2 metri, sono 8 metri dal livello del suolo. Anche troppo. Ti atti 4 metri in chi riesce una canonata. Arrivi molto bene, mi salvi. No, per arrivarmi come eri prima. Figurati se la metti bene. Non pensare che sia una brutta zona quella. Va veramente molto molto bene. Allora, quello che ti posso dire è che in via De Martino, ok, quasi alla fine, prima di arrivare per Marchetto, quando entri però nel viottolo, c'è un dislivello dall'asfalto, dalla strada principale, a dove ci abbiamo il terreno noi, ci sarà un dislivello di, non so, scende, è proprio il punto che rimane più in basso. Adesso io, c'è un palo della telecom, dei telefoni, io volevo attaccarmi di lì sopra quel palo che in legno è già un bel alto, però se dovesse passare qualche macchina dell'Enel e vede che c'è cosa, cazzo, mi denuncia. Infatti, sono una cosa da fare, c'è bisogno di metterla così, la metti a casa tua, messa bene e la lasci stare così. E vedrai che nessuno ti rompe le balle e esci benissimo da lì, perché sei già nella piana di punti ed è una bellissima zona, sia per il mare sia per il nord Sardegna. Vai molto bene secondo me. Vabbè, aspetta, geologicamente, geograficamente parlando, allora sono più in basso di punti. Praticamente il terreno di mia moglie risulta a livello di, lo dico su di, ottava. Sì, vabbè, però hai fatto le prove, è andato molto bene, l'antenna era per terra, avanti break. Buongiorno a tutti, doppio rumore. Non ti ho conosciuto nessuno, buongiorno, avanti lo profeta. Ciao Gianni, buongiorno, ben ascoltato. Sì, no, la verità sono rimasto anche sorpreso, perché proprio, cioè, l'hai visto tu, no? Un secchio di tinta, un pezzo di... quello lì è il primo palo in acciaio che innesta dentro la vanta, ma poi c'ho tutti gli altri tubi, ce li ho tutti in garage. C'ho le strappe, c'ho tassello chimico, c'ho tasselli grossi in acciaio. E adesso vediamo, dai, secondo me la piazza di rimbagno. Tanto alla fine quest'estate saremo molto in campagna perché abbiamo la piscina di lì lunga 4 metri e i bambini giocano e quindi saremo spesso e volentieri di lì. Mi siete tenuta, una piazza lì, a casa non deve fare niente, cioè non ci deve rimanere lì, con la caglia piazzata e tutto da fa. Bah. Piazza tra i campagna, per conto mio è ultimo, non c'è problema. Ciao Gianni, buongiorno. Buon caffè. Eccomi, mi ero spostato. Uia. Mi sono perso l'argomento della discussione, di cosa state parlando? Di nulla, di Cervello di Piazza Lanterna in campagna, e boh. Qualcuomane riprendi, Natalino. Sto qualcuomane sempre mangiando, stare. Ho sentito un ciao in sottofondo. Fallo entrare. Sì, deve essere Carlo. Carlo, tu sì. Ciao Carlo, ben sentito, dai, avanti, buongiorno. Cappa, dai, buon lavoro Carlo, dai, ti passo Claudio e poi fai girare. Ciao Carlo, buongiorno, ben ascoltato, dai, avanti, Salvini. Ehi, stavo parlando qua in verticale. Quindi ero un attimino fuori dal discorso, è entrato qualcuno, Claudio? No, ha ripreso Carlo, poi l'ho rilanciato a Natalino, però non ha ripreso. Vediamo un po', lo rilanciamo di nuovo, se no riprende il profeta. Ehi, a Carlo lo stavo sentendo anch'io, però qua io sono solo di apparecchio, non so se Carlo mi ascolta ancora. Carlo, ci sei, mi senti? Poi, alla grande sì, se sei liscio, sì, 9, oscillante 9 più 10. Sperando che ascolti me, io qua sono solo di apparato, perché come ho risalito l'apparecchio la campagna non ho collegato, ho messo direttamente l'antenna diretta al baracchino. Eia, io qua ti ascolto sempre ultimamente, segnale oscillante 8-9, non ci sono problemi. Tu Cla, come lo senti? A me arriva bassino, sino a quando non prende la strada dei due mari lì, la zona favorevole, arriva bassino, 5-5, sei caso. Vabbè, ma a casa sì. Io sì Gianni, sono a casa, perché? No, perché io l'ascolto bene o male come Claudio. No, io qua l'ascolto benissimo, ma la grande, cioè adesso proprio che mi sia passato un po' 8-9. No, perché io... no, perché magari tu hai la zona più libera, capito? Adesso sì, una fucilata, no, chi è? Ma già, adesso stai arrivando alla B di DB, abbassalo più, allora. Gianni è agganciato. Però già arriva bene anche lui a qua. A me mi arriva basso, 5-5, non di più, 4-5, 6, non di più. Ma la verità mi dolore, lo sai che ci sto pensando, che mi dolore il cuore andarmene da questa casa. Perché posso solo immaginare se io qua metto quella vanto va lì con quei 6 metri di palo che ho sempre avuto a casa di mamma, poi. Te li senti lì, signore? Sì, Santiago 9, con quei centennina, Santiago 9, sì. Ma c'è un pezzo di ferro, una boomerang che sto usando mi, nel pocciolo, che poi se io vado a vedere la tua posizione, la mia antenna è tappata dal mio palazzo, quindi non è che si vedono le antenne, la tua con la mia. Se salgo sul tetto sicuramente si vedono, e allora di lì cambia. Penso che dovrei arrivarti come minimo più di 9,20, almeno 9, intorno ai 9,25-9,30. Alla grande mi arrivi. Esce 9 con quell'antenna, se mette l'antenna sul tetto superi secondo me i 9,20. Alla grande. E tieni conto che io non lo vedo Sassari, perché dove sono io sono praticamente nell'ultima vallata di Serrasecca Alta, quindi Sassari non lo vedo, però esco bene perché sono alto, capito? Va bene, dentro Sassari naturalmente il segnale è notevolmente abbassato da dove ero prima, però per le altre zone non mi posso lamentare, già va bene. Vai sì, alla grande, qua c'hai il segnale tuo, è 9,20 pieno, con picchi positivi, capito? In campagna, idem, in campagna con l'antenna buttata in terra, di lì nel fosso, perché ti ripeto, se capito